Quanta pazienza che ha l'ascensore, su e giù tutto il giorno, poi fermo per ore. Risponde preciso premendo il pulsante. Lui non si lamenta e non chiede mai niente. La vita gli ha dato le briciole e lui silenziosamente ti trasporterà. Ma spesso ripensa a quegli anni gagliardi in cui la sua vita era fatta di sogni, tra i banchi e tra i bar dell'università, quando tutto era possibile. Ti sognava un albergo con ospiti chic, lo strato è pulito ad uso dei VIP. Avrebbe voluto i tasti col braille, l'allarme di giallo, di rosso, lo stop. E invece non ha manco i tasti che qualche teppista col fuoco squagliò. Se suoni l'allarme non squilla, lo specchio è coperto di carta.